9 in punto, la versione di Oscar. Eccomi, buongiorno, stavo bevendo un goccio d'acqua, sono stato preso alla sprovvista, buona settimana, buon lunedì 14 marzo, Santa Matilda, io ho una figlioccia di questo nome, perdonatemi. Il tema che abbiamo scelto oggi è un pochino, per così dire, in controtendenza rispetto a ciò che ovviamente campeggia nella gerarchia delle notizie da venerdì scorso, e cioè dallo tsunami e dal sisma del nono grado di intensità nella scala Richter che si è abbattuto sul Giappone nordorientale. E lo abbiamo fatto perché sono diversi giorni che oramai gli approfondimenti sul Giappone dominano, e abbiamo ritenuto invece opportuno, per così dire, non spegnere la luce, come avviene inevitabilmente quando notizie di questa violenza, di questa importanza si sommano, di non spegnere la luce, dicevo, su ciò che avviene vicino a casa nostra, in Libia. Dopo settimane in cui la rivoluzione dei gelsomini dalla Tunisia all'Egitto era giunta in Libia, e per 2-3 settimane almeno questa notizia ha rappresentato il punto obbligato dell'apertura dei giornali, dei telegiornali, dei dibattiti televisivi e radiofonici, che cosa avviene? Avviene che la Libia, come vi avevamo detto, conferma la sua irriducibile diversità rispetto ad altri paesi come la Tunisia, come l'Egitto, e piano piano ciò che sembrava già compiuto, cioè la vittoria degli insorti, la fine del regime del Rais Gheddafi, invece viene sostituito, e proprio in questi giorni in cui ci occupiamo più del Giappone la cosa sta evidentemente avvenendo, riprende piano piano il controllo di parti sempre più vaste del suo paese, dalla costa, da Sabratal vicino a Tripoli, poi Misurata, poi Ra'is Lanuf, estendendosi verso Oriente e riavvicinandosi quindi alla Cirenaica, che era la parte della Libia in cui più si addensava la protesta che qualche settimana fa aveva fatto gridare, immaginare e inneggiare la liberazione della Libia. E invece le brigate con i carri armati di Khamis Gheddafi, uno dei figli del Rais, piano piano riconquistano città dopo città, e quindi praticamente la Sirte è completamente riguadagnata a Gheddafi. Ora sui giornali trovate oggi l'ennesimo avanzata, per così dire, ci si prepara ad arrivare a Gidabia, e da Gidabia a quel punto ad aggirare la parte settentrionale della Cirenaica, Bengasi, che resta la roccaforte della protesta, ma da Gidabia a andare direttamente verso Tobruk, e a quel punto praticamente resterebbe solo lo sperone settentrionale della Cirenaica, mentre tutto il resto o quasi sarebbe stato ricondotto al controllo da parte delle forze militari e paramilitari fedeli al regime libico. È una vicenda che ha naturalmente molti aspetti da approfondire, ma soprattutto la questione dalla quale volevamo partire in questa prima parte della trasmissione è un'altra, perché mentre tutto questo ha preso forma era evidente che la comunità internazionale, dopo avere, per così dire, quasi rimproverato l'Italia per la sua prudenza nelle prime settimane, aveva iniziato a differenziarsi molto fortemente nelle proposte. Gli Stati Uniti con l'amministrazione Obama, in maniera insofferente quasi verso il ritardo del resto della comunità internazionale, chiedevano impellentemente ad Horas che il regime lasciasse spazio, e facevano capire di essere favorevoli ad azioni che però non hanno mai proposto al Consiglio di sicurezza. L'Europa si è divisa molto, tanto che all'inizio della settimana scorsa, e martedì e mercoledì, ci siamo poi dovuti fronteggiare con una posizione francese assunta dal presidente Sarkozy, che si è dichiarato favorevole ad azioni militari. No fly zone, ma sembrava non solo zona di interdizione al volo, anche qualche cosa di più, presenza militare diretta. Anche in quella direzione andavano le posizioni assunte in precedenza da David Cameron, il premier britannico. Risultato è che in realtà, di fronte a questa divisione che non ha mai poi formalizzato né nella NATO né nell'Unione Europea né nelle Nazioni Unite alcuna proposta concreta, alla fine la domanda da porsi è: ma la prudenza italiana era proprio così sbagliata? Ma l'alludere e il proporre esplicitamente, dividendosi, azioni militari che poi non si sono concretate e che avrebbero avuto poi quali conseguenze nelle opinioni pubbliche dei diversi paesi, ha aiutato davvero gli insorti contro il regime, o li ha indeboliti rendendo evidente di fronte al mondo che gli aiuti su cui contavano non sarebbero venuti, rafforzando quindi il rafforzamento da parte di Gheddafi. Ecco, occupiamoci della posizione italiana, della posizione europea e delle divisioni sugli strumenti da mettere in atto nei confronti degli insorti. Partiamo di qua. Il nostro ospite all'inizio di questa trasmissione è un ospite che abbiamo scelto perché non a caso negli anni precedenti, proprio nelle questioni medio orientali, in questioni come le crisi irachene e così via, ha sempre avuto anche una posizione talvolta distinta rispetto alla stessa posizione ufficiale, per così dire, dei governi italiani. Cioè ha una sua opinione consolidata su come l'Italia ha un suo ruolo nei confronti dei problemi del mondo musulmano, arabo e medio orientale. È il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei. Allora, secondo lei, rispetto a quello che sta avvenendo, innanzitutto la prudenza italiana è stato un bene, un male? Che cosa si può fare? Che cosa pensa lei? In che cosa dovrebbe consistere la posizione più giusta? Ma credo che la posizione italiana sia stata una posizione di grande saggezza e proprio gli avvenimenti ci stanno dando ragione, ma avevamo ragione non soltanto perché i fatti stanno dimostrando che la nostra era la posizione più saggia, più realistica, avevamo ragione perché pensare ad un intervento dell'Occidente o della stessa Europa in queste terre avrebbe significato aprire dei potenziali conflitti, tornare ad innescare la mina in quelle terre così sensibili, in quelle terre arabe, in quelle terre musulmane, in quelle terre in cui la presenza dell'estremismo islamico è un pericolo incombente, anche se non un pericolo presente, la mina di un nuovo conflitto tra Occidente e mondo arabo, che avrebbe immediatamente spostato la simpatia delle popolazioni dell'intero mondo arabo contro, quindi avrebbe scatenato un modo di antipatia, di ostilità nei confronti dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti. C'è un dato emblematico: in tutte queste rivolte ciò che ci si poteva aspettare non è accaduto, cioè nessuna bandiera americana è stata bruciata, proprio perché la rivolta ha interessato questioni locali in qualche modo, lo dico tra virgolette, era un confronto tra posizioni interne nei vari stati. Se fosse intervenuto anche con una qualunque delle forme che lei ha ricordato prima, anche quella più blanda, anche quella più leggera, un intervento dell'Occidente, io credo che immediatamente si sarebbe riaccesa questa fiamma. E in secondo luogo la posizione italiana è stata dettata, la posizione italiana è stata anche, non si è limitata a dire no ad un intervento militare, ma ci siamo mossi per primi nel portare aiuti umanitari. Questa era la strada giusta, questa deve continuare ad essere la strada giusta. Infine vorrei anche fare un'ultima sottolineatura: la differenza di posizioni è dettata anche da una differenza di interessi. Questo tema è stato toccato poco in queste settimane di analisi, ma chi conosce un po' la situazione lo sa molto bene: gli interessi americani nella zona sono di un tipo, gli interessi europei sono di un altro, e anche l'Europa è fortemente divisa. La voce grossa di Sarkozy, la voce grossa di Cameron, nessuno mi toglie il sospetto che fossero mosse anche, dico anche, dalla volontà di riaffermare una presenza forte in quella zona, appoggiando una parte in lotta, quella degli insorti, in vista o nella speranza di poter recuperare delle posizioni che oggi non li vedono così presenti come altri paesi, come ad esempio l'Italia. Alcuni criticano, per così dire, questa posizione di attendismo, di prudenza, perché dicono: ma in realtà così l'Europa, l'Italia e l'Europa sono riuscite solo a ottenere l'effetto di consentire a Gheddafi, al tribù che lo sostengono, ai suoi apparati di sicurezza, di provare a riprendere il controllo. In realtà che cosa ci guadagniamo, che cosa ci perdiamo? Da una parte. Dall'altra, lei dice la posizione francese, la posizione britannica hanno suscitato, insomma, il forte sospetto che non sia solo in Italia a volte che la politica estera diventi ancella della politica interna. Certo, ha molto colpito la durezza della posizione francese, tornando un secondo a quello che forse ha segnato il momento più forte della divisione europea la settimana scorsa, perché la Francia abitualmente è un paese che nei confronti del Nord Africa, per il suo passato, per la sua eredità coloniale, non direttamente in Libia certo, ma negli altri paesi vicini, abitualmente ha un polso diverso, per così dire. Allora, di fronte a queste due accuse, da una parte l'attendismo che riconferma Gheddafi, che prudenza è una prudenza che riconferma Gheddafi, dall'altra chi ha un'eredità di consolidata di presenza che dice all'Italia scavalcando la forza. Quali potevano essere gli interessi francesi, secondo lei, nei confronti di quelli italiani ad usare nei confronti della vicenda libica un taglio di intervento così diverso da quello che tradizionalmente la Francia riserva al Nord Africa? Ma partiamo da questa seconda domanda. Io credo che la Francia senta il bisogno di recuperare un po' di posizioni nel Mediterraneo, perché tutte le sue ultime mosse in questa direzione sono state sbagliate, sono andate a finire in niente. Basti pensare al grandioso progetto a parole dell'Unione del Mediterraneo lanciato in pompa magna da Sarkozy, dal governo francese, che si è ridotto assolutamente in nulla e si è visto che non è in grado di incidere minimamente in vicende come queste. E poi non dimentichiamo appunto che quella di Sarkozy è stata una mossa, come anche lei ricordava prima, mai nessuna proposta concreta è stata avanzata nelle sedi istituzionali preposte. Quindi è stato, a mio modo di vedere, un gioco prevalentemente politico, giocare una mossa, far capire agli insorti di Bengasi, se questi dovessero vincere, che la Francia è stata quella che ha tenuto la posizione più dura, per cercare di riguadagnare posizioni. Sul primo interrogativo, e questo è certamente quello che è più difficile da analizzare, perché uno dice, se non intervenendo si lascia rivincere Gheddafi o si potrebbe tornare di nuovo ad un dominio di Gheddafi, quindi non è stato sbagliato, non è sbagliato il non intervenire, ma credo che dovremmo domandarci che cosa sarebbe successo, che cosa potrebbe succedere di fronte ad un intervento europeo. Io credo che succederebbe un generalizzarsi del conflitto, non una limitazione del numero di morti, non una limitazione del numero di violenze, ma al contrario un'estensione. D'altra parte la lezione drammatica dell'Iraq è lì a insegnarcelo. Anche allora l'intervento fu giustificato perché bisognava fermare il genocidio di Saddam nei confronti dei suoi connazionali, perché Saddam era, si sapeva che non era così, sarebbe stato detentore dell'arma di distruzione di massa, ma questa fu la copertura ideologica. In realtà si voleva fermare il massacro nei confronti dei suoi connazionali. Purtroppo l'intervento americano, per quanto generoso, per quanto motivato da ragioni nobili, si è rivelato dal punto di vista operativo un fallimento totale, anzi ha moltiplicato il numero di vittime, ha innescato in Iraq un focolaio di guerre, di tensioni tra Occidente e mondo arabo, ha permesso l'inserirsi di Al-Qaeda, l'inserirsi dell'Iran, quindi alla fine il risultato ottenuto è stato peggio, ma molto peggio di quella che sarebbe stata la situazione se si fosse lasciata evolverla tranquillamente. Io non credo che questo mio tipo di ragionamento possa essere bollato di cinismo, è il realismo della storia. Oggi basta poco per incendiare un fronte arabo estremista o ipernazionalista che scatenerebbe conflitti molto più gravi di quelli che sono in atto in questo momento. Nei confronti della situazione che si crea in questi paesi, che si è creata in Tunisia, in Egitto, e di quella che è in via di trasformazione ulteriore, anche se in segno diverso da quello che si aspettava, in Libia, la parte, diciamo, di paese di cui lei porta la responsabilità, che è la parte in cui poi si addensa il più delle imprese italiane, il più dell'export, il più dell'addensamento energetico che è titolare dei flussi nei confronti del Nord Africa e della Libia, che cosa può concretamente fare, visto che poi bisogna lasciare l'operatività immediata ai governi nazionali, però visto che lei aveva articolato nel tempo una serie di iniziative concrete, ecco, nei confronti di questa nuova generazione, di queste classi dirigenti, che cosa concretamente la Lombardia può fare oggi, domani, nel futuro, per tentare di far loro capire che questa posizione di dialogo che lei si sforza sempre di tenere accesa rispetto ai rischi di scontri tra nord e sud, est e ovest, che cosa concretamente di fronte a questa nuova situazione pensate di fare? Ma io credo che la Lombardia, ovviamente nel concerto italiano, in collaborazione piena con il Ministero degli Esteri, con il governo, possa e debba fare molto. Noi possiamo e dobbiamo fare molto proprio perché siamo i referenti primi anche dal punto di vista geografico di queste terre e perché lo siamo diventati anche dal punto di vista culturale, così il sentimento di queste popolazioni nei confronti dell'Italia è sempre stato un sentimento tendenzialmente positivo, la nostra presenza, la presenza delle nostre aziende è stata vista positivamente. È chiaro che qui siamo in presenza di un mondo in tumultuosa crescita, basta pensare al numero dei giovani, che sono la maggioranza assoluta dentro questi paesi, un mondo giovanile che si è anche scolarizzato, i tassi di frequenza alle scuole, alle stesse università è altissimo, che conosce il modello occidentale, perché attraverso le televisioni, attraverso internet evidentemente tutto questo viene conosciuto in maniera perfetta, e che non trova sbocchi all'interno del proprio paese. Si vede in presenza di regimi sì anche corrotti, ma soprattutto passatisti, clanistici, che non riescono a innescare uno sviluppo. Quindi la nostra presenza, positivamente utilizzando il modello occidentale depurato dei suoi vizi, ma fatto di formazione, fatto di aiuti in loco, non tanto di tipo economico, perché lì le risorse economiche ci sono, ma proprio di modello di crescita. Pensiamo alla possibilità straordinaria, io credo, del modello piccola media impresa, del modello imprenditoria privata, nel modello capacità di rischiare in proprio, che proprio la struttura politica di questi paesi invece non permetteva. D'altra parte queste sono popolazioni intelligenti, lo vediamo, tanti immigrati che vengono in Italia diventano poi imprenditori a loro volta, quindi substrato umano c'è tutto, perché devono venire necessariamente in Italia per diventare imprenditori? Che cosa possiamo fare perché diventino imprenditori piccoli, medi e magari anche di più stando nel loro paese? Questo è l'interrogativo che come Lombardia ci siamo posti da qualche anno, che ci ha portato a compiere diverse missioni, a mettere in piedi degli strumenti di formazione, a formare per esempio preventivamente alcune diverse centinaia di persone che sarebbero poi immigrate in Lombardia, ma sono venute, che conoscevano quindi già la lingua, che conoscevano un mestiere. Ecco, attorno a tutto questo io propongo al mio paese intero, ne stiamo ragionando in Lombardia, ma propongo all'Italia una riflessione strategica, approfondita e veloce, perché questa fase di crisi potrebbe, utilizzata bene, rilanciare l'Italia in una posizione in primissimo piano, e da questo punto di vista segnalo un'occasione. Noi da anni organizziamo, prima dell'estate, il Forum del Mediterraneo, siamo già arrivati alla quinta edizione, che porta alcune delle leadership politiche, imprenditoriali, economiche, culturali più importanti di questi paesi della riva sud del Mediterraneo a Milano, a confrontarsi per 2 giorni proprio sui modelli di sviluppo. È chiaro che organizzeremo anche quest'anno il Forum del Mediterraneo, è chiaro che sarà qualcosa di diverso, perché i partecipanti dovranno essere diversi, ci stiamo pensando, stiamo lavorando, quella potrà essere un'occasione importantissima per un confronto sul piano politico, sul piano economico, sul piano del modello di sviluppo. Ecco, il presidente Formigoni, come vedete, ha una posizione articolata che nasce dal no al militare e pensa agli interessi economici e a rapporti culturali che però confermino alle classi dirigenti, quelle che c'erano prima, ma soprattutto le nuove che arrivano, qual è il ruolo dell'Italia. Io penso che in quello a cui abbiamo assistito in queste settimane sia stato un fortissimo tentativo di altri paesi occidentali di sbaraccarci anche per il futuro dalle nostre presenze, dai nostri interessi economici nell'area nordafricana, e penso che di questo si sia un po' forse discusso poco in Italia, come è giusto, lo vedremo nella seconda parte della trasmissione, ora grazie al presidente Formigoni che ci lascia, come è giusto ha prevalso l'elemento di entusiasmo per la novità, per il vento che soffiava, con gli americani che in prima fila hanno sempre alimentato e sostenuto l'idea intransigente che i regimi andavano cacciati. E il problema adesso però, una volta che noi abbiamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite messo fuori Gheddafi dalla legalità internazionale, perché questo è quello che è avvenuto 3 settimane fa, e adesso lui ricontrolla pezzo dopo pezzo il suo paese, come si troverà la comunità internazionale a dover fare i conti con lui? E soprattutto noi, nei confronti dei paesi verso il quale l'altro ieri il figlio che diciamo ha preso in mano di Gheddafi questo, sia la parte militare che la parte politica ripresa del controllo del paese. Avete sentito quando ha detto l'Italia sarà la prima a pagare? Come ci troveremo oggi che la comunità internazionale nei confronti di Gheddafi prima ha indicato la via del bastone e della fuoriuscita dalla comunità internazionale, poi si è spaccata, si è divisa, non è che il rischio è che lascerà poi l'Italia, accusata di essere troppo prudente invece, a pagare il prezzo di tutto questo? Lo vedremo dopo la pubblicità. Allora, per gli ascoltatori che chiedono con fare ma non parli di nucleare, ne parleremo, non vi preoccupate, sono il giornalista che si è esposto di più in tutta la comunità dell'informazione italiana nel fare un risk assessment, una valutazione di rischio poche ore dopo il sisma. L'ho scritto un articolo sul Messaggero che mi ha valso migliaia di insulti, e quindi non mi tirerò dietro, se non è domani al massimo dopodomani, da organizzarvi una bella trasmissioncina su questo fatto, per esempio che Repubblica ieri abbia dedicato le prime 7 pagine all'incubo nucleare, e poi dopo iniziava il Giappone, no? Dopo, cioè le migliaia di morti dello tsunami venivano dopo. Io sono convinto che questo riflesso condizionato di una parte dell'informazione italiana, che ha preso a manifestarsi fin dalle prime ore dopo lo tsunami, convinta di sapere già tutto e di avere la conferma che il nucleare sia una forma di produzione di energia non alternativa, ma lo dico sempre, ma da unire a quello delle rinnovabili, non abbia perso occasione per manifestarsi. Naturalmente il più dei rabidi, perché molti di loro hanno la bava alla bocca, io mi sono beccato da il signor Tozzi sulla Stampa, sul Fatto, accusa di essere un conclamato ignorante, un somaro, eccetera eccetera. Ecco, io non credo che questo sia il modo per condurre fredde analisi dei fatti. Continuo a pensare che quello che ho scritto sul Messaggero a poche ore dopo, quando bisognava valutare l'impatto immediato di un sisma di magnitudo 9 sulle 55 centrali e le 11 dell'area, obbligasse di dire che quello che rilevava di fronte a un fenomeno di quella durezza, intensità, era la tenuta e non il cedimento degli impianti. Se questo irrita coloro che pensano che io sia pagato dall'Enel, perché poi di tutto naturalmente arriva nelle reazioni, mi dispiace, io continuo a fare così il mio mestiere. Quello che sta avvenendo a giorni di distanza sui circuiti di raffreddamento reattori di Fukushima di 40 anni fa, quindi quando le procedure di sicurezza e le tecnologie di sicurezza non erano quelle di cui stiamo discutendo per le centrali di oggi, comunque testimonia che gli elementi di tenuta del nocciolo continuano a resistere, i procedimenti per allentare la pressione sono quelli previsti dalle procedure di sicurezza della centrale, pur in presenza del fatto che i generatori diesel che dovevano a quel punto garantire il raffreddamento dopo la sospensione automatica del reattore non sono entrati in funzione. E io mi chiedo e vi chiedo se a distanza di giorni dal sisma e alle migliaia di vittime che ci sono in tutto il Giappone nord-orientale sia per secondo voi giusto dedicare la parte prioritaria al terrore, all'incubo atomico, alle centinaia di vittime che sarebbero pronte a manifestarsi per l'atomo, senza occuparsi invece di quelle che a migliaia si sono prodotte non certo per l'incubo atomico. In ogni caso io non ne faccio una questione di contrapposto civiltà, ne parleremo nei prossimi giorni, lo dico perché stamattina in molti mi hanno riservato una bella raffica nei messaggi SMS. Torniamo alla questione di cui secondo me facciamo bene a occuparci oggi, perché ripeto, quello che sta avvenendo, grazie anche al fatto che il focus dell'attenzione internazionale è giustamente sul Giappone e nella Libia, è che Gheddafi ha ripreso ad attivare anche i propri emissari già a Bengasi, quindi ben dentro la Cirenaica, che si considerava la parte oramai della nuova Libia, con tanto di contatti internazionali per accreditarsi come nuovo governo di successore di quello di Gheddafi, agiscono, come potete leggere sui giornali di oggi, oramai di nuovo le squadracce di Gheddafi, che stanno iniziando ad eliminare gli elementi della resistenza. E poiché, come si è visto, non solo l'aviazione ma i carri armati e molti paramilitari del regime esistevano davvero e piano piano stanno risalendo tutta la strada costiera e da Hadabia potrebbero poi direttamente andare a Tobruk e di lì riprendere il controllo della frontiera con l'Egitto, noi ci troviamo nel giro di pochissimi giorni di fronte a un bel problema, dopo che abbiamo espulso Gheddafi dalla comunità internazionale e giustamente, visto quello che sembrava che fosse in corso, con un Europa molto divisa su questo. Allora abbiamo con noi oggi, per spiegarci dal punto di vista dei governi tedesco e francese che cosa è avvenuto e cosa ha condotto a questa divisione così forte la scorsa settimana, per spiegarci bene quali sono i diversi interessi e quali sono le linee che sono state seguite, che hanno però prodotto un'Europa incapace di agire e con un Sarkozy singolarmente più duro degli americani quasi nel chiedere misure militari. Quindi abbiamo con noi da corrispondente di Le Figaro in Italia, Richard Desé, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Germania. Buongiorno Beda. Buongiorno. Allora, iniziamo da José. Come si spiega questa posizione di Sarkozy? Da una parte così in controtendenza rispetto alla tradizione politica e diplomatica francese verso il Nord Africa, intervento armato coordinato, ma un intervento armato per far finire con Gheddafi. E dall'altra, come si spiega il fatto che poi sia venuta in così singolare controtendenza rispetto a quello che poi sta avvenendo invece in Libia, cioè Gheddafi sta riprendendo il controllo? Come si spiega questa posizione francese? Alla differenza degli altri paesi del Nord Africa, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, con la Libia la Francia non ha una tradizione coloniale, non ha dei legami stretti, se non che prende che importa del petrolio e del gas, ma in misure molto limitate. Per di più, con la Libia di Gheddafi, con Gheddafi stesso, i legami non sono mai stati veramente né caldi né stretti tra Sarkozy e Gheddafi. Questa è la prima spiegazione. La seconda è che la Francia, come del resto l'Inghilterra, perché Cameron è sulla stessa linea, hanno una lunga tradizione di interventi, diciamo, umanitari, almeno di interventi nelle guerre, per esempio in Bosnia, in Afghanistan, nel Libano sono intervenuti per temperare i belligeranti, dunque non mi sorprende più di tanto di questo. Poi c'è una terza chiave di lettura, che è molto interno. In Francia c'è una forte concorrenza di Marine Le Pen, che arriva oltre il 20% nei sondaggi, si voterà l'anno prossimo. Quindi insomma l'argomento elezioni e politica interna di cui ci parlava Formigoni, anche secondo te ha una certa chiave per spiegare? Ha una certa chiave, per di più Sarkozy deve far dimenticare che un suo ministro degli esteri, Michel Alliot-Marie, si è compromesso con il regime di Ben Ali, è stata dimessa, ovviamente Alain Juppé ha preso la successione, è un politico al profilo impeccabile, però diciamo che tutto questo forse ha contribuito a spingere Sarkozy a andare avanti chiedendo dei bombardamenti preventivi che ormai oggi sembrano un po' lontani della realtà, e andando in contrasto con Angela Merkel, e questo è un'altra cosa molto, molto strana, che si sia che il tandem Sarkozy-Merkel si sia, direi, non disciolto, ma si sia allentato. Allora, sentiamo dal punto di vista dell'osservatore che sta a Berlino, Beda Romano, invece come mai questa Angela Merkel rispetto a questa Europa con Cameron che premeva fin dall'inizio per strumenti di pressione anche militare. Poi alla fine arriva anche Sarkozy, ci è stato spiegato adesso, anche per questioni di politica interna e poi soprattutto perché è estraneo a presenze e a contatti diretti con la Libia, quindi tanto vale fare il duro, poi se la vedrà altri, tipo l'Italia che ha invece rapporti e presenze diverse con la Libia. Invece la posizione tedesca alla fine come si è cristallizzata? Ma credo che ci siano fondamentalmente due motivi dietro alla posizione tedesca. Il primo motivo è molto pratico. Credo che i tedeschi si rendano perfettamente conto che una zona che divieta il sorvolo di aerei in Libia sia difficile da praticare, difficile da mettere in pratica, e i tedeschi lo hanno detto molto chiaramente fin dall'inizio. E poi credo che ci sia un motivo più politico e di lungo termine. I tedeschi hanno un grande timore a questo punto di essere coinvolti in una possibile guerra civile in Libia, e poi non vogliono assolutamente aprire un nuovo fronte militare di quel tipo. La Germania negli ultimi anni è intervenuta in vari scenari internazionali con i propri militari ed è molto orgogliosa di questa sua nuova politica estera, ma ha vissuto la presenza dei militari e della Bundeswehr in Afghanistan con grande sofferenza e con grande difficoltà. Credo che in questo paese ci sia una maggioranza dell'opinione pubblica che vorrebbe rapidamente uscita della Bundeswehr dall'Afghanistan, per esempio. Quindi in questo momento proporre all'opinione pubblica tedesca la partecipazione in un modo o nell'altro delle truppe tedesche in Libia, è vista in modo impopolare. Volevo poi chiederti un secondo, aspetta, perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, riprendiamo ancora con Beda Romano, perché volevo chiedere quanto anche in Germania, dal suo punto di vista, l'impatto di prossimi imminenti appuntamenti elettorali, Baden-Württemberg e subito dopo il prossimo vertice del 24 e 25 marzo, in cui si dovrebbe stringere il patto nuovo di stabilità europeo, quanto conta anche l'elemento interno anche in Germania rispetto a questa stessa questione, quella del rapporto con la Libia e il Nord Africa. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. Ed è naturalmente abbastanza singolare ascoltare spot come questi. Il Marocco vi aspetta, il Marocco è tra i paesi nordafricani e magrebini quello che ha avuto forse meno problemi tra tutti per una serie di questioni, perché Re Mohammed VI ha adottato una politica di riforme senza aspettare la protesta, perché in realtà è uno dei discendenti del profeta, la sua dinastia, e questo rende più complicato addensare nei confronti del sovrano la protesta. Lo si potrebbe fare nei suoi governi, ma è singolare appunto pensare come nei confronti del Marocco nessuno potrebbe pensare o immaginare di non andare in vacanza oggi, mentre invece in Libia sta avvenendo quello che sta avvenendo. Allora, Beda Romano, stavamo esaminando il calendario elettorale tedesco, quanto influisce anche, oltre che sulla questione del rigore tedesco, l'ho sempre detto che anch'io se fossi stato tedesco avrei la linea del rigore per dire non sobbarchiamoci noi contribuenti tedeschi ai costi del salvataggio dei paesi non rigorosi all'interno dell'Unione Monetaria Europea, ma al di là di questo, anche sulla politica estera nei confronti di ciò che avviene nel Nord Africa, il calendario elettorale tedesco ha avuto influenze nei confronti delle posizioni assunte dal governo Merkel? Direi assolutamente di sì. Votano la settimana prossima due Länder della Germania, uno è la Sassonia-Anhalt e l'altro è il Baden-Württemberg. Questo è un paese tendenzialmente pacifista, nessun governo va all'attacco e propone l'uso diretto o indiretto di truppe alla vigilia di elezioni, sarebbe come correre al suicidio. Ci sono queste due elezioni, quella in Sassonia-Anhalt è un land relativamente piccolo e relativamente poco importante, quelle invece nel Baden-Württemberg sono elezioni cruciali per la signora Merkel. È un land che è governato dalla CDU, dal Partito Democristiano del Cancelliere, dal 1953, è uno dei Länder più ricchi e più popolosi del paese, e i sondaggi lasciano intendere che la CDU potrebbe perdere il governo di questa regione. Quindi in questo momento, con un occhio al Baden-Württemberg, la signora Merkel non vuole assolutamente prendere posizioni che potrebbero essere in un modo o nell'altro impopolari. Invece, brevissimo Beda, ma sulla questione del patto di stabilità, la prospettiva, insomma, che si ripeta quello che è successo anche alle ultime consultazioni locali poche settimane fa, cioè previsioni elettorali non molto buone per la CDU-CSU, rende la posizione del governo più facile a un accordo meno rigorista o più facile a un non accordo per capire meglio e diventare ancora più duri dopo? Ma credo che allora risponderò alla domanda su due aspetti. Il primo aspetto è che io credo che la signora Merkel dalla fine dell'anno scorso abbia preso una posizione meno antagonista su quello che è l'Europa e su come l'Europa dovrebbe uscire da questa crisi debitoria, ed è una signora Merkel che sta cercando di proporre al resto dell'Europa un governo dell'economia che sia più vicino ai principi tedeschi, e credo che lo abbia fatto perché si è resa conto che bene o male l'opinione pubblica tedesca non ha voglia di respingere l'euro e quindi sta cercando di assecondare la posizione dell'opinione pubblica tedesca, cercando di inoculare il più possibile principi tedeschi nella zona euro. Senza per questo arrivare, dice, al punto di dover rischiare l'esistenza stessa dell'euro per il no rigorista, si capisce? Esattamente. Ah. Esattamente. E questa mi sembra anche una posizione che, nella quale, cioè, è ovvio, si tiene contemporaneamente conto di ciò che pensa l'elettorato, ma con un senso di responsabilità, insomma, come fanno gli statisti veri. Sentiamo rapidamente due ascoltatori per le opinioni finali poi dei nostri colleghi da Berlino e del inviato di Figaro in Italia. Iniziamo con Claudio che chiama da Milano. Prego Claudio. Buongiorno ai suoi ascoltatori. Io sono appartengo a un'associazione, sono il vicepresidente di un'associazione che rappresenta le aziende creditrici della Libia fin dagli anni Ottanta. Come tale veste volevo far presente come la situazione che stiamo a cui stiamo assistendo oggi sia una situazione che per l'Italia, a mio avviso, presenta dei livelli di gravità veramente notevoli. Soprattutto dobbiamo pensare a questo, che il regime di Gheddafi, se riuscirà a uscire da questa situazione militare vincente, sicuramente intraprenderà una strategia a medio e lungo periodo che tenderà a tutelare se stesso, il proprio potere e la storia. Ma dal vostro punto di vista, la minaccia del figlio Saif dell'altro giorno dicendo se riprendiamo il controllo l'Italia sarà la prima a pagare, è una minaccia credibile? Assolutamente, noi imprenditori che la Libia la conosciamo da 20 anni sappiamo benissimo come già molti imprenditori abbiano pagato di persona queste minacce, sequestri di beni, sequestri di persona. Ci sono imprenditori che sono stati scambiati con terroristi negli anni 90 e ovviamente, come dire, questo non deve essere permesso, non deve essere possibile che un paese come il nostro torni di nuovo a sacrificare i singoli per tutelare interessi legittimi, ma che sono, come dire, da tutelarsi a livello di Stato. Il problema che riguarda l'operare in Libia è assimilabile a un operare in uno Stato in cui qualunque forma di potere non è dalla quale non ci si può difendere, non esiste alcun tipo di Stato di diritto, perché lei pensi che noi abbiamo creditori che hanno sentenze... No, chiarissimo, che naturalmente diventano inesecutive. È un po' paradossale la condizione nella quale però l'Italia, che aveva un criticatissimo dal resto del mondo rapporto di normalizzazione della sua eredità coloniale, che ci aveva riportato non solo a difendere i nostri interessi energetici lì, cosa che è un interesse nazionale, ci aveva riportato ad avere contratti, possibilità eccetera, viene spazzata via da questo, dalla rivoluzione, dalla protesta, fa la figura della caudataria di Gheddafi, Berlusconi in primis, dopodiché si trova paradossalmente esposta al peggior rischio per il paradosso, no? Il paradosso che è Gheddafi che riprende il potere rispetto al resto della comunità internazionale, che ha flesso i muscoli perché aveva meno interesse rispetto ai nostri. E alla fine viene completamente sbugiardata, perché Gheddafi, se si rimpadronisce il paese, questo avviene, e a pagare il conto siamo noi. Veramente una situazione molto paradossale. Sentiamo Mohammed che ci chiama da Ragusa, prego. No, niente, intanto buongiorno. No, io volevo portare in chiaro la mia associazione. Noi siamo un'associazione di i marocchini a Ragusa, e praticamente noi abbiamo fatto un progetto chiamato I Have a Dream, che praticamente tende a dare supporto alle aziende locali per affrontare il dopo questa situazione del bacino del Mediterraneo. Quindi dei vostri paesi di provenienza, delle aziende lì? Allora, non solo questo, noi abbiamo cercato di convincere alcune persone che non fanno parte della comunità marocchina, come sì, i tunisini, gli algerini e quelle, per fare parte nel nostro progetto. Sì. E si sono messi con noi, ma la cosa importante in questo è che noi stiamo dando questo appoggio gratuitamente. Sì. Gratuitamente stiamo lavorando anche su il fatto di fare coinvolgere anche i politici, perché pensiamo che sarà che una cosa essenziale, e così andiamo a fare fiere, le appoggiamo queste aziende, perché le aziende soffrono, e poi tramite anche la vostra radio abbiamo capito in alcuni programmi che tutte quelle aziende che sono riuscite dopo questa crisi a riemergere più o meno sono stati grazie al mercato estero. E sono poi dei punti di forza per il consolidamento anche poi delle condizioni nei paesi. Mohamed, per qualunque cosa continuate a fare riferimento a noi, se possiamo esservi utili. Io credo profondamente in questo tipo di reticolo di rapporti commerciali, di impresa tra classi dirigenti, informazioni e presenti, come accennava Formigoni, per questo gli abbiamo dato spazio. Però in conclusione, il paradosso di un'Italia esposta, prima sbeffeggiata perché è troppo prudente, e domani con Gheddafi che torna, la più vicina a pagare i conti, perché è lo interesse occidentale che c'era prima e verso il quale è più facile fare ritorsioni, è un paradosso col quale bisogna iniziare a fare i conti in queste ore e in questi giorni, prima di decidere se fare che cos'altro, perché abbiamo capito che il resto d'Europa e il resto del mondo si è fatto bello più che parlare di cose concrete. I poveri insorti libici ora ne pagano il prezzo nelle sabbie della Cirenaica. Appuntamento a domani, Linea Generale Radio.